36 barre contro gli infami, che quando parlano parano tanti cani. Adesso accuccia zitto, non ti muovere, che parli assai e sai che non puoi nuocere. Ho le ginocchia a terra, mani dietro la nuca, perquisizione corporale. Non è guerra se non ho un bazooka, litri di sambuca e metto il cuore in pace. La mia bocca tace, troppi casa spirittiano proprio adesso. Più giorni passano più ne ho appresso. Quale compromesso, onore chiama onore. Non sono Giuda che poi fotte il signore. Umani reggi calze senza le palle. Al lavoro o col giudice ti prendono alle spalle. Non mi fido più di nessuno, bruciandomi un santino in mano, te lo giuro. Fede a giuramento, sono molto cari, più di 120 capitali. Guardatevi le spalle, sono gli infami che le barre in cui sto scrivendo. Ti prendo e al tappeto ti stendo. Nel frattempo cambio la mia rima. J-Bo vi odia più di prima. Avete il veleno nella faccia, state a cuccia. Mi avete ferito come una freccia. Sono incazzato come una iena. Nessuna pena, J-Bo. Siete solo dei maligni. Il vostro posto è nella fogna, anzi è all'inferno. Così bruciate i miei terreni.